Menestrello, cantami la storia di un uomo che da solo, profondo e proletario, con il suo fido arnese, lui avanzò pretese, lottando con coraggio per riscattare il prezzo del foraggio. Marcello si chiamava il nostro eroe, un Cristo a 2 metri, veniva da Velletri, puzzava come un mulo, perché effettivamente col mulo ci dormiva, ma ci in paese non se ne parlava. Compagni su, cantiamo insieme questa canzone di libertà. Marcello di lavoro fa il bracciante, da quando era allattante lavora per qualcuno che poi non ha visto mai, capitalista in netto, e lui come un negretto con la sua falce il grano procurava. Compagni dai, lottiamo insieme contro il nemico fascista, capitalista, pindiello, anche solo un poveraccio che si era messo la camicia nera perché tutte le altre le aveva a lavare. Giorno su giornale c'era scritto che il prezzo del grano era calato, ma non lo lesse lui, glielo lesse il mulo, che aveva un parente stallone, che era colto e ci aveva imparato a leggere il giornale. Ma questa è un'altra storia, insomma il contadino, a dir poco adirato, dopo un litro di vino, furioso anzi incazzato, si recò all'ufficio imposte, dice perché proprio all'ufficio imposte, perché cosa ti aspetti da uno che si fa leggere il giornale da un mulo? Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, prese la falce, minaccioso e gigantesco, fece un bordello immane, prima di rendersi conto che quello non era l'ufficio imposte, ma il gabinetto di un barbiere, e non sapendo che fare, già che c'era si fece rasare. Che bella questa storia, che poi ci insegna molto, per esempio se compri un mulo, accertati che abbia un parente cavallo colto, così almeno alla mattina può leggerti il giornale. E poi abbiamo appreso che quando sei incazzato conviene stare sobrio, che poi se ti ritrovi al cesso di un barbiere non è detto che faccio usare senza farti pagare. Insomma compagni, le campi con ardore, cantiamo la canzone che narra dell'eroe, che ispirò quel tale che fece il simboletto, il mondo l'hanno tolto, però non era male. A noi faccia Marcello, a noi faccia Marcello, a noi faccia Marcello, a noi faccia Marcello, a noi faccia Marcello, a noi faccia Marcello.